in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Oggi non abbiamo tanto tempo per la nostra rassegna stampa, allora magari vi segnalo sia le prime pagine che subito gli articoli all'interno che mi sembrano interessanti oggi dei vari quotidiani, partendo dal Corriere della Sera che ha il titolo principale dedicato all'assemblea del PD e all'annuncio di Renzi, sfida di Renzi, taglio le tasse, moltissimi naturalmente i commenti, ma in questo caso vi segnalo l'intervista a Cottarelli, Carlo Cottarelli, lo ricorderete, ex uomo della Spending Review, veniva dal Fondo Monetario Internazionale dopo aver messo a punto il suo piano, che è stato accolto diciamo a metà per essere ottimisti, ha deciso di tornare al Fondo Monetario Internazionale ed è di questo che parla con Giuseppe Sarcina, soprattutto cioè del suo lavoro al Fondo Monetario Internazionale. Il titolo dell'intervista, che trovate poi a pagina 8, alleggerire il debito greco ma Atene paghi gli arretrati. Sapete che la grande questione in questi giorni è che il Fondo Monetario Internazionale, per bocca tra l'altro della sua presidente Christine Lagarde, ha detto: bene, l'accordo sulla Grecia è già qualcosa, però noi insistiamo sulla ristrutturazione del debito, cioè sul taglio del debito sul quale la Grecia deve pagare gli interessi, perché sennò questo accordo, l'accordo ponte raggiunto questa settimana, servirà a poco. E nella pagina poi dove c'è l'intervista di Cottarelli c'è anche la notizia sul fatto che le banche greche, dopo un po' di tira e molla, si è deciso che domani, lunedì, riaprano. Dalle pagine interne del Corriere della Sera vi segnalo anche questa un po' così bizzarra lettera di Stefano Fassina, lo ricorderete, il deputato del Partito Democratico che ha lasciato il Partito Democratico in aperta polemica con Renzi. Scrive al Corriere della Sera, che anche bizzarramente pubblica, una lettera il cui contenuto è: sono d'accordo con Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, la Grexit assistita è l'unica soluzione. Sapete che nei giorni precedenti all'accordo, cioè sostanzialmente sabato e domenica scorsa, era circolata questa ipotesi che Schäuble volesse un'uscita assistita dalla Grecia temporanea, una cosa che poi tutti hanno detto era una misura difficilissima da attuare e soprattutto non auspicabile. Lo ha ripetuto ancora questa settimana il governatore da BCE Mario Draghi, ma Stefano Fassina invece si sente di dire di essere d'accordo con Schäuble e il Corriere della Sera gli dà voce, gli dà spazio a pagina 9. Dalla Repubblica vi segnalo invece una bella copertina, anche in questo caso è dedicata all'assemblea del PD, all'annuncio di Renzi con questa manovra da 45 miliardi che prevederebbe tra l'altro come punta massima insomma di riforma l'eliminazione della tanto odiata tassa sulla prima casa, cioè quella che adesso si chiamava IMU, poi ha cambiato nome parecchie volte, che tutti abbiamo appena pagato. C'è naturalmente, non l'ho detto, ma anche sul Corriere della Sera naturalmente tutta la cronaca delle commemorazioni che ci sono state ieri a Palermo per i 23 anni dalla strage di via D'Amelio, in cui perse la vita il giudice Borsellino, con naturalmente tutto lo strascico di polemiche sulle intercettazioni vere o presunte tra il presidente della regione Crocetta e il suo medico personale Mario Tutino, attualmente agli arresti domiciliari per peculato e altri reati, dove appunto Tutino avrebbe detto Lucia Borsellino merita di fare la stessa fine di suo padre, cioè di essere uccisa. Ma dalle pagine interne della Repubblica vi segnalo una bella intervista a Margarete von Trotta, che è forse la più famosa regista tedesca, che parla di un tema che abbiamo toccato anche ieri nella rassegna stampa europea, cioè l'immagine che adesso la Germania ha, soprattutto forse per via della presa di posizione di Angela Merkel e del suo ministro Schäuble, insomma, nell'immaginario europeo ma anche mondiale. E quindi Maria Pia Fusco, che l'ha intervistata, titola l'intervista: troppi pregiudizi influenzano i tedeschi, ora cresce il rischio del nazionalismo. Questo è un po', sapete, il rischio che si è paventato, c'è persino un libro di Vittorio Feltri che si chiama Quarto Reich, la cui tesi è che quello che non riuscì alla Germania nella seconda guerra mondiale, cioè dominare l'Europa e forse anche il mondo, le sta riuscendo per vie economiche, da qui appunto l'idea di un quarto Reich. Però Margarete von Trotta, che non parla di questo, comunque parla del rischio che ci sia appunto un nuovo nazionalismo, con tutta la nostra storia, il fatto di essere così arroganti, così crudeli, così privi di umanità nei confronti dell'invasione felicità degli altri mi sembra davvero temibile. È uno dei virgolettati dell'intervista. Ma vediamo la prima pagina del Sole 24 Ore, che ovviamente titola su questo tema importantissimo delle tasse. L'annuncio del Premier: via la tassa sulla prima casa, giù le imposte sulle imprese. Sarebbe appunto questa rivoluzione che Renzi ha definito copernicana e che varrebbe 45 miliardi in 3 anni. Vi segnalo anche l'editoriale di Luca Ricolfi sulla Grecia, su quello che seguirà, sulle tanto discusse, agognate riforme di tutto il sistema europeo, perché la lezione rischia di non servire, questo è il titolo. Vi segnalo anche un articolo di Paul Krugman, che è un premio Nobel per l'economia e tra l'altro è uno che un po' a intermittenza ha anche teorizzato, sostenuto la fine dell'euro, o comunque criticato molto il modo in cui l'euro è stato introdotto nell'Unione Europea. E in questo ennesimo articolo molto critico spiega perché l'Europa dei tecnici ha fallito. La lettera al risparmiatore di questa settimana è dedicata alla Data Logic, sapete, quella pagina intera, la pagina 16 questa settimana, che esamina un titolo quotato per dare consigli a chi o già lo possiede in portafoglio o magari pensa di comprarlo, del nostro collega Vittorio Carlini della redazione di Finanza. E poi un'interessante analisi di Fabio Pavesi, che trovate a pagina 6, sui debiti mondiali, non quindi solo quello della Grecia, non quello dell'Italia, non quelli dell'Africa di cui abbiamo parlato 2 settimane fa. Ecco, il debito mondiale, ci spiega Fabio Pavesi poi a pagina 6, vale 3 volte il PIL del mondo, 200 mila miliardi l'importo del debito pubblico e privato a livello globale. E vi segnalo anche una bellissima intervista a Raffaele Cantone, ex magistrato, ora commissario, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che è nata nel 2014 e lui ne è appunto stato scelto da Renzi come presidente. Il titolo dell'intervista di Donatella Stasio, che trovate a pagina 19, è: il giudice non è un entomologo, interpreti la realtà. Il magistrato deve, nei limiti della norma, ha opzioni interpretative diverse, c'è un vuoto della politica e della pubblica amministrazione. I temi trattati naturalmente sono tantissimi, a partire da tutte quelle sentenze come quella famosa che ha ripristinato gli aggiornamenti delle pensioni che il governo Monti aveva bloccato con la riforma Fornero, a partire appunto da quella sentenza alla Corte Costituzionale, che ha avuto delle conseguenze economiche molto forti. Dalla prima pagina di Imprese e Territori vi segnalo un bilancio, è giusto farli regolarmente questi bilanci, su Expo di Giovanna Mancini, l'effetto Expo sul Made in Italy. All'assemblea Coldiretti si sono registrati questi dati positivi: cresce in maggio l'export del cibo più 7%, con punte in Cina dove c'è stato un aumento del 57% e negli Stati Uniti del 19%. C'è però il tema fortissimo della contraffazione, perché ancora una volta si sottolinea come la contraffazione, tutti quei cibi che hanno dei nomi cosiddetti Italian sounding, cioè che suonano italiani ma in realtà non sono l'originale, noi lo sappiamo ma per uno straniero è più difficile capirlo, e vengono persi 60 miliardi. C'è un altro dato positivo però, che sono aumentati del 12% gli addetti under 35 del settore. Anche La Stampa titola sulla rivoluzione delle tasse annunciata da Renzi. La fotonotizia è quella dell'abbraccio tra il presidente Mattarella e il figlio di Borsellino Manfredi, cioè il fratello di Lucia, un abbraccio riconcilia Borsellino con lo Stato. Naturalmente moltissimi gli articoli di cronaca. E dall'interno, come ieri vi avevo segnalato la prima parte del reportage dal Mali, bellissimo, di Domenico Quirico. Il Mali è uno dei paesi da cui partono molti dei migranti che poi a volte arrivano, a volte no, sulle coste italiane o sulle coste greche. Oggi c'è la seconda puntata, la trovate a pagina 8 e 9, un telefonino e nient'altro, così raggiungeremo l'Europa. E questo è uno dei virgolettato tratto dalle molte testimonianze che Quirico ha raccolto parlando con i giovani che abbandonano i loro villaggi per cercare una vita migliore, ma per scappare in questo caso anche dalla fame. Questo ragazzo, per esempio, che appunto dice: ho solo un telefonino, dice: calcolo di metterci 3 mesi e ce la farò anche se ho paura del mare. Un approfondimento sulla Stampa che accende un riflettore, come spesso dico, su questioni che magari ci dimentichiamo, questa volta è la Colombia, che naturalmente è famosa anche per essere un paese che produce, esporta e distribuisce stupefacenti, in particolare cocaina. Filippo Fiorini, inviato in Sud America, ci spiega come ci siano anche molti attacchi alle oleodotti, perché così la guerra delle FARC avvelena la Colombia, non solo contraccolpi economici nel conflitto con i ribelli, questa eterna guerra tra appunto i ribelli delle FARC, ma anche tutti i narcotrafficanti e i governi governi della regione, in particolare quello colombiano. Ma con questo tipo di guerriglia che indirizzata agli oleodotti, c'è anche naturalmente, ci sono anche delle conseguenze ambientali. Sul Messaggero naturalmente un approfondimento, l'avete sentito nel GR, sulla cattura del presunto killer del gioielliere, c'è stata questa accelerazione delle indagini, è stato bloccato sul treno, aveva due pistole ma soprattutto l'area furtiva ed è stato naturalmente arrestato. Visto che abbiamo parlato di immigrazione, il Messaggero dà una notizia che non ho trovato sugli altri giornali, cioè che domani c'è un vertice sui rimpatri in Europa e c'è un vertice in Italia per fare il punto su quello che bisogna chiedere all'Europa, e appunto si cercherà di tornare a concentrarsi anche su questa questione, oltre a quella delle tasse, naturalmente molto importante per noi, ma qui sappiamo quanto l'emergenza, anche visti i disordini che ci sono stati a Roma e in Veneto, quanto l'emergenza ai migranti debba essere al centro dell'attenzione del governo. Ci lasciamo un attimo per il traffico. In primo piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Abbiamo ancora qualche minuto, poi magari passiamo ai supplementi della domenica per le copertine, e qui proprio si vede come l'annuncio di ieri sulle tasse, sul taglio delle tasse di Renzi, naturalmente viene letto in modi diversi. Il Giornale per esempio titola senza mezzi termini "Il ballista", e il leader PD promette taglio le tasse, state sereni, ma non ha nemmeno pagato i debiti alle imprese. La questione di cui a Radio 24 si è parlato tantissimo è quella appunto dei debiti che la pubblica amministrazione ha verso le imprese, uno dei primi impegni che aveva preso Renzi. La questione della restituzione di questi debiti si sta rivelando molto più lunga e complicata di quanto auspicato e annunciato dal Premier. L'editoriale è del direttore Alessandro Sallusti, naturalmente spiega questo titolo, il ballista, cioè Berlusconi, tra l'altro viene citato Berlusconi che quando ha sentito di questo annunciato taglio della tassa sulla prima casa ha detto se veramente lo fanno noi la voteremo, e poi però Sallusti dice ma chi crede al Premier. E a proposito di balle, un po' lo stesso tono, quello di Libero, qui l'editoriale del direttore Maurizio Belpietro, tassiamo le balle di Matteo e risaneremo il debito. Il titolo principale, risse, occupazioni, censure, i tagli in mano agli immigrati. E poi la polemica, forse ne avrete sentito parlare o se ieri siete stati su internet avrete visto un po' di movimento su Twitter eccetera, sulla vignetta che c'era ieri in prima pagina sul Corriere della Sera di Giannelli, non è piaciuta e addirittura qui è diventato un caso, la rimette in copertina e la satira che fa paura a chi ti fa invasione, insomma un po' una polemica. E ci sono altre due polemiche che Libero mette insieme nella stessa pagina, perché vengono in un certo senso tutte e due dall'Inghilterra. Una riguarda un servizio del Daily Telegraph, un quotidiano britannico, che ha spiegato come si stiano spendendo moltissimi soldi a Bruxelles per rifare tutto il quello che serve per dare le grandi cene al Ministero degli Esteri, cioè quello che non esiste un Ministero degli Esteri dell'Unione Europea, però è in tutte le cene ufficiali, naturalmente il capo, lo sappiamo, della politica estera dell'Unione Europea è la nostra Federica Mogherini. E allora ci spiega, ci dà queste cifre effettivamente abbastanza impressionanti, il servizio da tavola milionario della Mogherini, vasellame in porcellana cinese con bordo dorato e cristalleria, i ricevimenti esteri dell'Unione Europea possono costare anche 3 milioni. E poi l'altra polemica, che invece viene dal Sun, che al contrario del Daily Telegraph è proprio un tabloid, cioè quel tipo di giornali che qui in Italia non abbiamo, i giornali scandalistici, quelli che mettevano fino a pochi mesi fa, adesso Murdoch ha stoppato questa cosa, a pagina 3 c'era sempre una donna nuda, e qui è stata pubblicata una foto del 1933, quindi quando Hitler era appena arrivato al potere, dove si vede Edoardo VIII con sua figlia Elisabetta che fa il saluto nazista, "The Royal Highnesses", Heil naturalmente come Heil Hitler, un gioco di parole, quindi non Highness, la sua altezza reale, ma "The Royal Highness". È una foto naturalmente da inquadrare forse appunto in quel periodo, però ha fatto molto scandalo sia in Inghilterra che poi adesso probabilmente anche fuori, oggi la pubblicano un po' tutti i giornali. E a proposito di come si interpreta le cose, ho detto ieri che l'Unità, che è tornata in edicola il 30 giugno, è forse veramente l'unico giornale di partito rimasto. Sentite questo taglio a questo titolo a tutta pagina: "Bella l'Italia che taglia le tasse". E c'è, tra l'altro viene pubblicato parte dell'intervento di Matteo Renzi, "Così cambiamo il paese". E poi, come ogni domenica, al sabato lo ricorderete, Matteo Renzi risponde alle domande dei lettori o elettori o comunque simpatizzanti o magari non simpatizzanti. invece la domenica ha una rubrica fissa Walter Veltroni, che dell'Unità è stato direttore ma è stato anche segretario del PD. Dal Fatto Quotidiano, invece qui il titolo anche è molto ironico e viene un po' da un film, viene da un film di, con Antonio Albanese, che vi ricordate, con quel personaggio politico caricaturale, in cui il titolo è Renzi, meno tasse per tutti. C'è poi un approfondimento addirittura su quella vignetta che vi dicevo di Giannelli. Tommaso Rodano è andato a intervistare Emilio Giannelli, che risponde: la mia vignetta non era razzista, era un paradosso, non sapete ridere. La vignetta, sempre difficile e strano raccontare una vignetta, comunque la vignetta rappresenta una famiglia che torna chiaramente dalle vacanze, entra in casa e in casa trova dei profughi, e quindi il capofamiglia dice: e voi? E loro rispondono: profughi. Vi passo velocemente ai supplementi culturali perché abbiamo veramente poco tempo, ma la domenica sono tanti e soprattutto forse noi abbiamo più tempo di leggerli, e cominciamo naturalmente da quello del Sole 24 Ore. La copertina è dedicata a un intervento di Carlo Rovelli, sapete, il fisico nonché grandissimo divulgatore, che sta avendo un successo enorme, forse inaspettato, con il suo libretto 7 lezioni di fisica, anche collaboratore storico della Domenica, e quindi viene pubblicato questo intervento, che si chiama appunto Il Rinascimento di Copernico, e che viene definito una splendida nuova lezione sull'unità sostanziale tra scienza e cultura umanistica, che forse appunto è proprio impersonificata da uno scienziato quotatissimo come fisico, che però riesce anche a essere un grande divulgatore. Il memorandum di Roberto Napoletano è dedicato alla parte dalla lettera di una studentessa che già gli aveva scritto l'anno scorso, che ora gli riscrive. L'anno scorso aveva 17 anni, ora ne ha uno in più, che è ottimista comunque per il futuro della scuola, e così anche Napoletano cerca di farsi contagiare da questo ottimismo, e naturalmente racconta ancora una volta, parlando da una testimonianza, come il futuro dell'Italia naturalmente dipenda dai giovani che restano. Abbiamo visto ieri come tra l'altro sia stato appena siglato un patto per far tornare i cervelli. Il breviario di Gianfranco Ravasi si intitola Il flauto di Socrate ed è parte da una citazione di Émile Cioran, che è: mentre stavano preparandogli la cicuta, Socrate si esercitava sul flauto per imparare una melodia. A cosa ti serve? Gli domandarono. E il filosofo: a sapere quest'aria prima di morire. Già il titolo Squartamento è un emblema rovente, come lo sono le pagine di quest'opera che lo scrittore francese rumeno Émile Cioran pubblicò nel 1979. Il pessimismo cola, infatti, nei suoi scritti, distillato come un veleno, ma talora anche come un vaccino. È il caso di questa parabola sul flauto di Socrate. La società contemporanea, ma non solo, ci abitua a rispondere sempre a una domanda preliminare ad ogni azione o impegno: a cosa serve? Oppure quanto mi rende? Così abbiamo perduto il gusto del gioco libero, dello sport privo di intrecci commerciali, dell'arte creativa, del divertimento sereno, della ricerca, del sapere puro e della contemplazione gioiosa della bellezza. Naturalmente il Domenicale è ricchissimo di altri spunti. Vi segnalo per esempio un articolo di Roberto Casati, che è un altro, anche lui uno storico della scienza, che ci racconta come esista un vero pericolo di quando usiamo il telefono, quando guidiamo. Il titolo è: scrivi un SMS e ti schianti. I dati sulle morti causate dall'interazione con lo schermo sono allarmanti. Ecco alcuni consigli, quindi molto pratici, le misure drastiche da adottare. Ma passiamo alla lettura del Corriere della Sera, perché da questa settimana c'è una novità, e che secondo me è sempre una buona novità quando aumentano le pagine dedicate ai libri, alla cultura. La lettura appunto diventa più corposo e verrà venduto, tra l'altro mentre prima era allegato gratuitamente al Corriere della Sera della domenica, verrà venduto a 0,50 centesimi, e però resterà in edicola tutta la settimana. La copertina resta come da tradizione affidata a un artista, questa settimana è Tony Craig, un disegnatore. Vi segnalo l'articolo a pagina 2 e 3 di Alessandro Piperno, che ho trovato bellissimo: la narrativa è una religione, per questa volta sono un po' ateo. Alessandro Piperno è uno scrittore ma insegna anche letteratura francese all'Università di Roma, e quindi in questo articolo cita e ricita Montaigne, che sicuramente tra gli scrittori francesi, o comunque tra gli scrittori in generale più famosi, è quello che forse ha più dedicato tempo e considerazioni all'amore per i libri, e sono molto belle da rileggere. Vi segnalo poi invece la copertina del supplemento della Repubblica, che si chiama Gran Milan, ed è un lungo articolo di Maurizio Bono dedicato un po' a quelli che in tanti stanno definendo la rinascita di Milano. Tutto naturalmente è partito probabilmente da Expo, però c'è stato tutto un effetto, un circolo virtuoso che ha innescato effettivamente una specie di rinascimento di Milano, con tante anche nuove iniziative culturali legate all'arte. Abbiamo parlato spesso della Fondazione Prada, per esempio, e quindi Maurizio Bono dice: la città dell'Expo è diventata bella, come sia stato possibile lo abbiamo chiesto a due suoi abitanti, Gillo Dorfles, storico dell'arte ultracentenario, uomo eccezionale, e Umberto Veronesi, naturalmente il grande chirurgo, e ci sono tantissime considerazioni, ma anche tante foto di com'era Milano e com'è oggi, come sta diventando. La serie di interviste Straparlando, sapete, quella bellissima, illustrata al centro pagina sempre da Riccardo Mannelli, con un bellissimo ritratto, questa settimana è dedicata a Ermanno Norea, grandissimo scrittore intellettuale napoletano, e il virgolettato che la sintetizza è: forse ho l'animo del disertore, ma in verità tutti siamo dei perdenti. Il supplemento del Messaggero Macro è invece dedicato a questa iniziativa interessante a proposito di cervelli in fuga, Fratelli di Tweet, l'Italia sedesta. Sul web impazza l'hashtag cancelletto Growing Up Italian, creato da un gruppo di giovani italoamericani in cerca delle loro radici, che però hanno finito col rafforzare stereotipi e luoghi comuni. Così i nostri ragazzi comunque riscoprono un po' di orgoglio nazionale. Vi segnalo tra l'altro l'Unità scopro oggi anche lei un supplemento culturale alla domenica, si chiama Radar, e la copertina è dedicata alle considerazioni di Omar Calabrese, sociologo che ripercorre un po' tantissimi appunto fenomeni sociologici degli ultimi anni. E invece Alias, che è il supplemento del Manifesto in edicola sia al sabato che alla domenica, ha la copertina dedicata a proposito abbiamo parlato di Terzo Reich, a un romanzo scritto pubblicato nel 1952, ora ripubblicato da Adelphi, che si chiama Il richiamo del corno, un breve romanzo horror pubblicato da un diplomatico inglese al Cairo, dove si parla anche del Terzo Reich e di tutte le conseguenze dell'ascesa di Hitler in Germania. Era l'ultima segnalazione che riesco a farvi, grazie a Paolo Corleoni in regia, e buona domenica a tutti voi da Giulia Crivelli.